Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche al puntamento di questi fumetti della sinistra, il Pioniere, e subito vediamo il menù di questa puntata. Avremo la seconda parte dell'intervista con Marco Fincardi, che è storico, esperto di fumetti, in particolare del Pioniere, grande ricercatore, nonché docente all'Università Ca' Foscari di Venezia. E poi a seguire, come sempre, un'altra puntata vincente della resistenza, della lotta di classi di Cipollino contro l'odioso esattore Pomodorone. Tutto questo ovviamente condito con musiche e vari stacchi sonori inerenti comunque al far del fumetto. Boing! You stupid kite, come down out of that tree! Kite, kite! Or, chuff, chuff, chuff! Glum, glum, blaggity, glack, glack, glack, glack, glack! Chomp, chomp, crunch, crunk, crack, crackle, sir! Go! Barf, gosh! Da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, da-ling, tinkle, da-ling! Erk! Phew, you! Knock, knock, puff, ouch, bum, bum. Black, black, blinkety, blink, blink, blop. I'm Frieda and I've got naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? Good grief. Pow, pop. Popora, popora. Pow, psh. Puff, puff. Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Sigh. Dung, dung. She's got a ticket to ride. She's got the weather tomorrow will be mostly cloudy. So, knock, knock. Oh, smack. Grunt, snuff, glab, zbroom, crumb, hiss. Rumble, zbam, swaggot, scraggot, scratch, crumb, clash. Con Marco Fincardi, storico, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, abbiamo già affrontato il tema del divenire della cultura giovanile e anche del fumetto in particolare in Europa e anche in Italia. A questo punto analizziamo qualche eroe, cominciando da Atomino, un eroe davvero strano, quello che percorreva i fumetti di Rodari in un momento in cui c'era il terrore della bomba H e quindi il nucleare era un po' l'incubo generalizzato. Ma vedremo, allora c'era anche il mito del nucleare buono, quello della scienza, quello che illumina l'oscurantismo del passato. Oltre a Cipollino, oltre a Chiodino, il terzo eroe per eccellenza è Atomino. Come spiegare questa presenza di nucleari in un momento in cui il mondo era terrorizzato dalla bomba H? Perché era vista come anche questa come una possibile alternativa. C'era l'idea che il nucleare potesse essere lo sbocco della forza positiva del futuro da contrapporre invece alla fabbricazione delle bombe. Il fatto che tutti i paesi che costruivano centrali nucleari intanto fabbricassero anche bombe atomiche era visto come non era visto come un legame necessario. Del resto l'Italia così anche lei aveva le sue tre piccole centrali nucleari all'inizio degli anni 60, ma che non avevano dato vita alla costruzione di una bomba atomica nel caso italiano, anche se sul nostro territorio avevamo quelle della NATO. Questa cosa era così, era visto anche l'idea della centrale nucleare, dello studio dell'atomo, qualcosa del genere, come qualcosa che non aveva necessariamente implicazioni militari, ma c'era tutta questa idea dell'andare sulla Luna, dell'andare nello spazio, cose del genere, che era visto come positivo, naturalmente anche perché ancora fino a metà degli anni 60, fino al decollo poi del progetto Apollo negli Stati Uniti, c'era così, finché la NASA non è competitiva rispetto ai missili sovietici, la conquista dello spazio sembrava una cosa più legata ai progetti sovietici di navigare nello spazio, e quindi veniva vista come una cosa progressista dove i lavoratori erano all'avanguardia con la tecnologia che producevano rispetto alla tecnologia di guerra, si diceva, prodotta dal capitale. Quindi Yuri Gagarin, il primo grande eroe dello spazio. Chiaramente, certo. Ecco, infine, in un mondo, gli anni 50, in cui c'era tanta analfabetismo, quanto poteva essere pregnante tra i figli dei lavoratori un fumetto, comunque necessità, certo, di lettura? Sì, il fumetto è qualcosa che viene rivolto specificamente a quell'ambiente sociale, un ambiente sociale povero di figli di lavoratori, e quindi è qualcosa che li coinvolge. Ma in più, appunto, c'è il discorso che facevo prima del fumetto legato a un'associazione che li coinvolge. Un'associazione che ha lo scopo specifico di cambiare il destino di quei bambini, di farli diventare qualcosa di diverso, di non legali a una vita di emarginazione, di subalternità, come era stata quella dei loro genitori, quella dei loro nonni, e quindi anche il portare tra di loro la lettura, le visite culturali che non erano solo visite a città, musei, cose del genere, erano anche visite a fabbriche, visite a luoghi di lavoro, visite a luoghi dove c'erano magari lavoratori in sciopero, per cercare di capire problemi sociali. Faceva anche la promozione di ricerca, di studio, poi di ricerca sulle filastrocche popolari, sulle favole, sui canti popolari. C'era proprio un vero discorso di approfondimento di una cultura autogestita che era visto come uno strumento di emancipazione, e che ha funzionato tra l'altro anche come tale. Perché se noi poi guardiamo dove sono stati fatti degli studi, anche alle biografie di tanti dei pionieri, noi vediamo che spesso sono diventati dei quadri sociali. Magari anche a livello alto vediamo dei manager, soprattutto nell'ambiente della cooperazione, cose del genere, ma in tanti ambienti, anche piccoli ambienti di fabbrica o di realtà di quartiere, cose del genere, spesso vediamo che tanti che sono passati negli anni 50 all'interno di questa esperienza poi sono diventati delle figure sociali di riferimento per il loro ambiente, hanno realmente cambiato il loro destino. Non hanno più avuto bisogno magari degli intellettuali che li guidavano, come poteva essere una realtà di decenni prima, anche di prima del fascismo, dove potevano esserci dei movimenti sociali di massa, ma dove c'erano sempre dei dirigenti che erano di origine borghese. In questo caso proprio anche il pioniere è stato un'esperienza per far crescere dei quadri sociali che poi, soprattutto quando ha cominciato a esserci la scuola di massa, o quando ha cominciato lo Stato sociale a produrre anche servizi di massa nella sanità, quando hanno cominciato a esserci le esperienze di medicina alternativa, sia di medicina del lavoro, ma soprattutto quelle di servizi psichiatrici radicati nel territorio, che poi hanno portato alla chiusura dei manicomi, queste cose del genere. Chi si era formato all'interno dei pionieri o magari nelle colonie dove veniva applicata la pedagogia dei pionieri, spesso sono stati portatori di queste culture alternative, che sono state un elemento molto caratterizzante di tutti i discorsi di alternativa culturale, sociale, che sono stati il fermento più interessante nella società italiana di quei decenni, tra gli anni 60 e gli anni 70. Quindi noi abbiamo visto questi ragazzi crescere e diventare dei riferimenti di un'Italia nuova che cercava di affermarsi, e probabilmente quello di meglio che abbiamo ancora oggi ereditato dall'Italia dell'epoca è in parte dovuto proprio a quello che è stato seminato dall'Associazione Pionieri e che è passato, naturalmente, che aveva il suo momento di rafforzamento proprio sul giornalino, dove non c'erano solo letture, c'erano indicate in tantissime pagine giochi da fare, tutte cose collettivizzanti, socializzanti, e dove soprattutto si propagandava un attivismo anche sportivo, ma sempre senza competizione, dove tutti dovevano esserci, doveva esserci la squadra che lavorava insieme, collettivo. Non doveva mai esserci il più furbo, il più svelto che fregava gli altri. È un discorso che è già l'oggi. Allora, sull'oggi proprio chiudiamo davvero, Marco. Tu sei storico, nonché un aderente come al CRAP, come Comitati del Pioniere. Come ti spiega una storia così importante oggi sia così poco conosciuta fuori da chi in qualche modo al suo tempo fu un pioniere o un lettore del Pioniere? Ma a lungo è stata un tema quello del giornalino del Pioniere o dell'esperienza stessa dei pionieri, che veniva ricordata magari più dagli avversari che non dalla stessa sinistra. Proprio all'interno della sinistra c'è stata una rimozione che è stata devastante, perché se pensiamo che questa sparizione dell'Associazione dei Pionieri c'è stata alla fine degli anni 50, solo in pochissime realtà come Reggio Emilia, Ravenna, è continuata fino all'inizio degli anni 70, quando poi l'esperienza è stata riassorbita all'interno dell'Arci Ragazzi, con la nascita dell'Arci Ragazzi, che ha avuto gli stessi dirigenti che aveva in precedenza l'Associazione dei Pionieri. Ma questo tipo di esperienza è sparita alla fine degli anni 50 e quindi ha lasciato scoperto una formazione, un discorso sociale della sinistra verso i più giovani, che in altri paesi non c'è stato, perché noi vediamo in tutti i paesi dell'area tedesca, scandinava, dove queste associazioni esistono tuttora e sono molto vive tuttora, soprattutto quelle legate ai falchi rossi di area socialista. Ma in quei paesi queste associazioni sono state un momento vivificante che ha partecipato attivamente a tutta l'esperienza del 68. In Italia la sinistra è arrivata scoperta quell'appuntamento del 68. Ma come si è trovata una spiegazione dell'ipotesi di questa rimozione? Appunto, abbiamo già parlato prima che Daniel Deiotti a diversi altri, così, c'era questa diffidenza verso, non era mai stata digerita, mai assimilata questa esperienza, e alla fine il fatto che fosse stata abbandonata e che di fatto si fosse abbandonato totalmente in mano dei cattolici la formazione dei giovanissimi è stata vista come una cosa inevitabile, per cui non ce n'è stata più nessuna riflessione critica, autocritica rispetto a questo abbandono. Nessuno ci ha più lavorato sopra. Tra l'altro, come dicevo prima, anche il giornalino ha avuto, prima di essere un supplemento all'Unità e a Noi Donne, aveva avuto per quasi un decennio una diffusione militante, quindi anche solo recuperare le copie del giornalino era difficile, per cui anche tanti storici dell'educazione, tanti studiosi citavano spesso il Pioniere genericamente, citandone l'esistenza ma senza conoscere la documentazione. Oggi, grazie a Carlo Zaia, che ha costituito il CRAP e ha fatto un lavoro immenso di costruzione di un archivio online dove il Pioniere e tante altre pubblicazioni legate all'API sono leggibili e consultabili gratuitamente, oggi è possibile fare questo tipo di lavoro. Infatti cominciano a esserci storici dell'educazione, pedagogisti che cominciano a lavorarci, proprio perché ora questa documentazione è accessibile. Prima era dispersa in tantissime biblioteche quando c'era, ed era praticamente introvabile. Diverso era il discorso appunto per il Pioniere o per il Vittorioso, che invece nelle biblioteche c'erano, perché avevano avuto il loro circuito commerciale e quindi nelle biblioteche le collezioni c'erano. Sì, quindi vediamo che cliccando il pioniere.org tutto in PDF, tutto rigorosamente no copyright, va segnalato e sottolineato, il materiale è consultabile, quindi quello che abbiamo ascoltato oggi in radio uno può tranquillamente verificarlo. Soprattutto per chi si interessa a storia dell'educazione, sia un insegnante, sia un pedagogista, sia un genitore interessato all'educazione dei propri bambini, può vedere che andando a vedersi quel materiale, quei giornalini, ci trova dei contenuti talmente avanzati, talmente che sono proprio dell'esperienza italiana prima ancora che di altre esperienze. Poi anche tanti altri paesi, in tanti altri paesi le sinistre hanno copiato proprio dal giornalino Il Pioniere, perché era qualcosa di estremamente avanzato. C'era, io ho avuto modo di lavorare come educatore anche con Loris Malaguzzi a Reggio Emilia, quello che è stato il padre fondatore delle scuole alternative, di tutte le esperienze educative alternative che sono venute da Reggio Emilia, e lui era uno che lavorava costantemente con l'API, perché era così il luogo dove meglio si trovavano riferimenti a quelli che potevano essere esperienze europee, dell'est europeo, del nord Europa, che ricadevano proprio in una realtà sociale italiana che è stata in grado di produrre uno strumento che non era per nulla qualcosa di scopiazzato alla fine da altri paesi. È stato anzi un riferimento, e infatti poi ritroviamo tante cose del Pioniere che sono riprodotte in giornali di altri paesi europei, ma ritroviamo poi anche oggi, va tanto l'editoria, oggi le pubblicazioni di Gianni Dorodari sono infinite, vengono ripubblicate di continuo, sono contese tra gli editori. Nessuno però ci dice che molte di quelle storie che vengono raccontate vengono proprio sono riprese dal giornalino Il Pioniere. Slam, flap, smash, splat, snap, smack, snort, splash, flap, tick, tack, spring. Stomp, stomp, stomp. Ugh, thud. Stomp, stomp, stomp. Zvoom, swash. Tim tum tum tum tum tum twing. Yowie! It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. Yeah! Yuck yuck. Wump wump. Whoosh. Zing. Zoom. Zowie. E adesso veniamo nell'ultima parte della nostra trasmissione all'ennesimo capitolo dell'avventura di Cipollino, che si oppone strenuamente alle proterve dell'esattore Pomodorone. Gli ha messo in galera il padre, reo di essersi costruito una povera capanna che subito l'orribile capitalista Pomodoro gli ha requisito, e tra l'altro, ingannando gli sciocchi e vacui re Ciliegia, scatena la caccia con le guardie proprio per incarcerare Cipollino. Comincia a mettere in gabbia i suoi amici con le scuse più strane, ma Cipollino rimane sempre uccel di bosco. Non vedo l'ora di catturare quel delinquente di Cipollino. Ho sentito dire che è un vero criminale. Consideriamo questa assoluta verità: tutti i frutti e gli ortaggi sono uguali e hanno gli stessi diritti. Esatto. Ciao. Tu sei il principe Ciliegia, vero? Sì. Scusate, ma voi chi siete? Io sono Ravanella. E io Cipollino, ciao. Cipollino? Oh, certo, ho sentito parlare di te. Davvero? E da chi? Dal nostro giardiniere Cactus. Il cavaliere Pomodoro dice cose terribili sul tuo conto. Perciò devi essere uno in gamba. Qualcuno dovrebbe mettere quel pelato in scatola. Sono diventato famoso. È fantastico questo giardino. Senti, ora che sei nostro amico, Ciliegia, devo dirti che quel pomodoro puzzolente purtroppo ha arrestato tutti i miei amici e li ha messi nelle carceri delle tue zie, solo perché hanno cercato di proteggere la casetta di Sor Zucca. È un'ingiustizia. Con il tuo aiuto li potremmo liberare. D'accordo. Cos'è? Grazie. Risate non autorizzate. C'è una tassa sulla risata, ma è possibile? Non lo sanno, deve essere pagata. Adesso me la pagheranno. Mi avvicino quatto quatto come un gatto. Sentite, avevo pensato di... Per mille polpe. Intesi allora. Cipollino! Ti affetterò, ti triterò, ti farò soffriggere a fuoco. Prima però devi prendere. Oh, Cipollino! Che succede? Vedo vostra sugosità un po' in difficoltà e più pavorazzo del solito. Sei a corto di vitamine? Fatti un bel succo di pomodoro con una schizzatina di limone. Cose dunque si complicano per Cipollino e per sapere come andrà a finire il prossimo capitolo di questa lotta di classe nell'orto, l'appuntamento ovviamente è a sabato prossimo. Ciao a tutti e risentirci. E forse qualcuno anche a te piacerà.